giornale radio della Puglia. Buongiorno da Emiliano Chirino in studio per la prima edizione del giornale Radio Rai della Puglia. Collaborazione tecnica di Alessandro Grasso, in titoli Covid, ieri più di 4.000 contagi e 7 decessi, incertezza sui tempi per la dismissione dell'ospedale in fiera. Domenica delle Palme con celebrazioni in tutta la Puglia, anche i primi turisti in vista delle festività pasquali. Uno stesso in cucina al servizio della solidarietà, vari pasto offerto ai giovani di una comunità educativa. Calcio, classifica di Serie C riscritta dopo il fallimento del Catania per Zeman, campionato falsato. C'è una ultima ora di cronaca, in corso un'operazione della Polizia di Stato nel Brindisino, territorio di Mesagne, smantellata un'organizzazione di trafficanti di sostanze stupefacenti, numerosi gli arresti, dettagli alle 11 in una conferenza stampa. Parliamo di Covid, i contagi continuano la lenta ma costante discesa, ieri 4.000 nuovi casi.